Un mondo costruito sull'immaginazione, sulla velocità, sull'eccesso. Il mondo visionario e onirico di Castelli di rabbia di Alessandro Baricco sarà raccontato da Salvatore Costa. Alessandro Baricco è uno scrittore, saggista e drammaturgo italiano, nato a Torino nel 1958. Dopo gli studi in filosofia e musica, si è affermato negli anni 90 con romanzi di grande successo come Castelli di rabbia, Oceano mare e Seta, caratterizzati da uno stile lirico e originale. È anche autore del celebre monologo Novecento, portato in teatro al cinema. Oltre alla narrativa, Baricco si è dedicato alla riflessione culturale e alla divulgazione, fondando nel 1994 la Scuola Holden, un centro dedicato alla formazione, alla scrittura e nello storytelling. La trama Castelli di rabbia è ambientato in una città immaginaria dell'Ottocento europeo. Un luogo attraversato da treni, fabbriche e sogni smisurati, dove il progresso corre veloce e spesso fuori controllo. Al centro della storia c'è Rail, un uomo enigmatico e geniale, capace di costruire ferrovie che sembrano opere d'arte, più che semplici mezzi di trasporto. Attorno a lui si muove una galleria di personaggi eccentrici, inventori ossessionati dalla perfezione, imprenditori visionari, donne affascinanti e misteriose. Tutti spinti da desideri estremi e passioni irrisolte. La città cresce da macchine spettacolari, amori improvvisi e rivalità sotterranee. Ogni progetto nasconde un'ambizione segreta, ogni relazione porta con sé una frattura. Qualcosa però si inclina lentamente. Dietro l'entusiasmo del progresso si accumula una tensione invisibile, una rabbia silenziosa pronta a esplodere. Il lettore avverte che ogni costruzione, ogni sogno innalzato così in alto potrebbe crollare da un momento all'altro, lasciando in sospeso il desiderio, il destino dei personaggi. Castelli di rabbia lascia l'impressione di un libro inteso e visionario, capace di trascinare il lettore in un mondo affascinante e instabile. La prima sensazione è quella di stupore. La narrazione sembra muoversi come una macchina complessa, fatta di immagini potenti, invenzioni sorprendenti e personaggi fuori dal comune. Si percepisce una continua tensione. Il progresso che dovrebbe portare ordine e miglioramento appare fragile e carico di ossessioni, come se nascondesse sempre una crepa pronta ad allargarsi. I personaggi non sono mai del tutto rassicuranti, sono spinti da passioni estreme, da sogni troppo grandi per restare intatti. Il linguaggio di Baricco colpisce per il suo tono, che rende la lettura evocativa più che lineare. Alla fine resta una sensazione di sospensione, come se il romanzo non volesse dare risposte definitive, ma invitare il lettore a riflettere sul prezzo dei desideri e sulla furia silenziosa che può nascondersi dietro le grandi costruzioni dell'uomo. Castelli di rabbia può essere letto sorprendentemente vicino ai nostri tempi, perché mette al centro temi che restano attualissimi. Il romanzo racconta un'epoca di grandi innovazioni in cui il progresso tecnologico corre più veloce della capacità umana di comprendere le conseguenze. Una situazione molto simile a quella che viviamo oggi con il digitale. L'intelligenza artificiale e la globalizzazione.